Il Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alvar Horvacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Quando Dorothy si fu stancata di guardare i balli, Bock l'accompagnò in casa, dove le diede una stanza con un letto davvero carino. Le lenzuola erano di tela blu e Dorothy dormì profondamente fino al mattino, con Totoro aggomitolato accanto a lei sul tappeto blu. Mentre faceva una bella colazione, si divertì molto a guardare giocare con Toto uno gnammi piccolino, che gli tirava la coda, urlava e rideva. Tutti gli gnammi erano infinitamente incuriositi da Toto, perché non avevano mai visto un cane in vita loro. «Quant'è lontana la città Smeralda?» chiese la ragazzina. «Non so», rispose tutto serio Bock, «perché non ci sono mai stato. È meglio stare lontano da Oz, a meno che non si abbia da combinare affari con lui. Ma la strada per la città Smeralda è lunga e ci vogliono parecchi giorni per percorrerla. Qui la campagna è ricca e piacevole, ma dovrai attraversare posti pericolosi e selvaggi prima della fine del tuo viaggio». The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before, born. Dorothy era un po' preoccupata, ma siccome sapeva che solo il grande Oz poteva aiutarla a tornare in Kansas, decise coraggiosamente di non tornare indietro. Salutò i suoi amici e ritornò sulla strada di mattoni gialli. Dopo aver camminato un paio di miglia, pensò di fermarsi a riposare, e così si arrampicò sulla cima di uno steccato che affiancava la strada e si sedette. C'era un grande campo di mais oltre lo steccato, e poco più in là, in alto su un palo per allontanare gli uccelli dal mais maturo, uno spaventapasseri. Dorothy, mento posato sulla mano, lo scrutò pensierosa. La sua testa era un sacchettino riempito di paglia, con disegnati sopra degli occhi, un naso e una bocca. In testa aveva un vecchio cappello blu, appartenuto a qualche gnammi, e come corpo dei vestiti blu, imbottiti di paglia anche quelli. Ai piedi dei vecchi stivali, con la cima blu, di quelli che portavano tutti nel paese, e il palo ficcato nella schiena elevava la sua figura al di sopra delle piante di Gran Turco. Mentre Dorothy fissava la strana faccia dipinta dello spaventapasseri, rivide, con somma sorpresa, che le faceva l'occhiolino. Pensò di sbagliarsi all'inizio, perché in Kansas gli spaventapasseri non fanno l'occhiolino. Poco dopo, però, lui le fece anche un amichevole cenno con la testa. Dorothy scese dallo steccato e gli si avvicinò, mentre Toto, correndo attorno al palo, abbaiava. «Buongiorno», disse lo spaventapasseri con voce rauca. «Hai parlato?» chiese la ragazzina meravigliata. «Certamente», rispose lo spaventapasseri. «Come va?» «Abbastanza bene, grazie», replicò Dorothy educatamente. «E a te come va?» «Non mi sento bene», disse lo spaventapasseri sorridendo, «perché è molto stancante stare appollaiato qui giorno e notte a spaventare i corvi». «Non riesci a scendere?» chiese Dorothy. «No, perché ho questo palo infilzato nella schiena. Se tu, gentilmente, togliessi il palo, ti sarei molto riconoscente». Allungando le braccia, Dorothy lo tolse dal palo. Ci riuscì soltanto perché lui, essendo di paglia, era molto leggero. «Molte grazie», disse lo spaventapasseri, «e una volta a terra mi sento rinato». «He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Dorothy era confusa, perché era strano sentir parlare un uomo impagliato e fare inchini e camminare accanto a lei. «Chi sei?» chiese lo spaventapasseri dopo essersi stiracchiato e aver sbadigliato. «E dove stai andando?» «Mi chiamo Dorothy», disse la ragazzina, «e sto andando alla città smeralda per chiedere al grande Oz di rimandarmi in Kansas». «Dov'è la città smeralda?» domandò. «E chi è Oz?» «Come? Non lo sai?» ribatté lei, sorpresa. «In effetti no, non so nulla. Vedi, sono impagliato, quindi non ho cervello», rispose, triste. «Oh», disse Dorothy, «mi dispiace molto». «Secondo te», chiese lui, Se vengo con te alla città smeralda, quell'Oz mi darebbe un cervello. Non saprei, ribatté lei, ma se vuoi puoi venire con me. Anche se Oz non ti dà un cervello, non ti andrà mai peggio di come ti va adesso. Questo è vero, disse lo spaventapasseri. Vedi? Continuò con aria di complicità. Non mi dispiace avere le gambe, le braccia e il corpo impagliato, perché non mi possono far del male. Anche se qualcuno mi pesta i piedi o mi infilza con un ago, non mi importa, perché non sento niente. Ma non voglio essere chiamato stupido, e se nella testa ho solo della paglia e non un cervello come il tuo, come farò mai a sapere qualcosa? Ti capisco, rispose la ragazzina sinceramente dispiaciuta. Se vieni con me, chiederò a Oz di fare tutto quello che può per te. Grazie, rispose lui, grato. Dorothy lo aiutò a scavalcare lo steccato e si avviarono sulla strada di mattoni gialli verso la città smeralda. A Toto non piaceva questo nuovo membro della comitiva, lo annusava come se sospettasse che ci fossero dei topi nella paglia e ringhiava lo spaventapasseri con ostilità. «Lascia perdere, Toto», disse Dorothy al suo nuovo amico, «non morde mai». «Oh, non ho paura di lui», rispose lo spaventapasseri, «non può fare del male alla paglia. Lascia che ti porti il cestino, non mi peserà perché non mi posso stancare». «E ti dirò un segreto», continuò mentre camminava. «Ho paura di una sola cosa al mondo». «E di cosa?» chiese Dorothy. «Del contadino Gnammi che ti ha costruito?» «No», rispose lo spaventapasseri. «Di un fiammifero acceso». «All through the day I'm in mine. Night, I'm in mine. Now the brightness are leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Un paio d'ore la strada diventò quasi impraticabile e camminare un'impresa tale che lo spaventapasseri inciampava spesso sui mattoni gialli, tutti sconnessi. Infatti a volte erano rotti, altri non c'erano affatto e al loro posto dei buchi che Toto saltava e Dorothy evitava. Quanto allo spaventapasseri, non avendo un cervello, camminava sempre dritto, quindi vi finiva dentro e cadeva lungo disteso sui duri mattoni. Non si faceva mai del male comunque e Dorothy lo rimetteva in piedi, ridendo con lui allegramente per l'incidente. Le fattorie non erano più così ben curate come quelle che si erano lasciati alle spalle. C'erano meno case e meno alberi da frutto e più camminavano, più la campagna diventava desolata e solitaria. A mezzogiorno si sedettero sul ciglio della strada, vicino ad un ruscello. Dorothy aprì il suo cestino e tirò fuori un po' di pane. Ne offrì un pezzo allo spaventapasseri, ma lui rifiutò. «Non ho mai fame», disse, «ed è un bene, perché la mia bocca è dipinta, e se dovessi tagliarci un buco per mangiare, ne uscirebbe tutta la paglia e la forma della mia testa sarebbe rovinata». Dorothy non ebbe nulla ad eccepire ed annuì semplicemente, continuando a mangiare il suo pezzo di pane. «Raccontami qualcosa di te e del tuo paese», disse lo spaventapasseri, appena lei ebbe finito di cenare. Così Dorothy gli raccontò tutto sul Kansas e su come ogni cosa fosse grigia lì e come era stata portata dal ciclone in quello strano paese di Oz. Lo spaventapasseri l'ascoltò con attenzione e poi disse: «Non capisco perché vuoi lasciare questo bellissimo paese per tornare in quel posto arido e grigio che chiami Kansas». «Non capisci perché non hai cervello», rispose la ragazzina. «Non importa quanto siano monotone e grigie le nostre case, noi persone in carne e ossa preferiamo vivere lì piuttosto che in qualsiasi altro paese, per bello che sia. Niente è meglio della propria casa». Lo spaventapasseri sospirò. «Logico, non lo posso capire», disse. «Se aveste le teste impagliate come la mia, probabilmente vivreste solo in bei posti e il Kansas sarebbe senza abitanti. È una grande fortuna per il Kansas che voi abbiate un cervello». «Mentre riposiamo, perché non mi racconti una storia?» chiese la ragazzina. Lo spaventapasseri la guardò risentito e rispose: «La mia vita è stata talmente breve che non so nulla. Mi hanno fatto solo l'altro ieri. Non so cosa sia successo prima. Fortunatamente il contadino, facendo la mia testa, mi dipinse quasi subito le orecchie e così ho sentito quello che stava accadendo. C'era un altro gnammi con lui e per prima cosa lo sentì dire: «Ti piacciono queste orecchie?» «Non sono dritte», rispose l'altro. «Non importa», disse il contadino, «sono sempre orecchie». E questo era vero. «Adesso farò gli occhi», disse il contadino. Quindi dipinse il mio occhio destro e appena ebbe finito mi ritrovai a fissare con curiosità lui e tutto ciò che lo circondava, perché per la prima volta stavo guardando il mondo. «Quest'occhio è abbastanza bello», osservò lo gnammi, seguendo il lavoro del contadino. «Il blu è proprio il colore giusto per gli occhi». «Il secondo occhio lo farò un po' più grande, credo», disse il contadino. E cominciai a vederci meglio quando ebbe finito anche il secondo occhio. Poi mi fece il naso e la bocca, ma non parlai perché non sapevo a cosa servisse una bocca. Mi divertii a guardarli formare il mio corpo, le braccia e le gambe. E quando finalmente ci attaccarono la testa, ne fui molto fiero, perché pensavo di essere un uomo come tutti gli altri. «Questo qui, senza dubbio, spaventerà i corvi», disse il contadino. «Assomiglia proprio a un uomo». «Ma è un uomo», disse l'altro, e io concordavo. Il contadino mi portò sotto braccio fino al campo di mais e mi so alto su un palo, là dove mi hai trovato. Poi lui e il suo amico se ne andarono e rimasi solo. Non mi piaceva essere abbandonato in questo modo. Quindi cercai di seguirli, ma i miei piedi non toccavano terra e fui costretto a rimanere sul palo. Era una vita solitaria, perché non avevo nulla a cui pensare, essendo stato costruito così poco tempo prima. Sul campo di mais volavano molti corvi e altri uccelli, ma appena mi vedevano, se ne andavano via di nuovo, pensando che fossi uno gnammi. Questo mi faceva piacere e mi sentivo importante. Mi volò vicino più volte un vecchio corvo, e dopo avermi guardato attentamente, si appollaiò sulla mia spalla e disse: «Mi chiedo se quel contadino credesse veramente di farmela con così poco. Qualsiasi corvo, con un po' di buon senso, noterebbe che sei impagliato». Quindi saltò giù dalla mia spalla e mangiò tutto il mais che voleva. Gli altri uccelli, vedendo che non gli facevo nulla, vennero a mangiare anche loro, e così in breve fui circondato da un grande stormo di corvi. Ne fui rattristato, perché era chiaro che non ero poi così bravo come spaventapasseri. Ma il vecchio corvo mi tirò su il morale dicendomi: «Saresti un uomo come tutti loro, anzi migliore di molti, se solo avessi un cervello in testa. L'unica cosa che vale la pena di avere in questo mondo, che tu sia uomo o uccello, è un cervello». Quando i corvi se ne furono andati, ci ripensai e decisi di cercarmelo un cervello. Per mia fortuna sei arrivata tu e mi hai tirato giù dal palo, e da quanto dici sono certo che il grande Oz mi darà un cervello appena arriveremo alla città smeralda. «Lo spero», disse Dorothy seria, «visto che desideri così tanto averne uno». «Oh sì, non posso proprio farne a meno», rispose lo spaventapasseri. È così brutto sapere di essere un idiota. «Beh», disse la ragazzina, «andiamo». E diede il cestino allo spaventapasseri. Ora non c'erano più steccati ai margini della strada, e il terreno non era né arato né coltivato. Verso sera si avvicinarono ad una foresta grandissima, dove gli alberi erano cresciuti così vicini e diventati talmente grossi che i loro rami si incrociavano sopra la strada di mattoni gialli. Sotto gli alberi era quasi buio, perché i rami non facevano filtrare la luce del sole. ma i viandanti non si fecero impressionare ed entrarono nella foresta. «Se questa strada va dentro, dovrà anche venire fuori», disse lo spaventapasseri. «E poiché la città smeralda sta all'altra estremità della strada, dobbiamo seguirla». «Chiunque lo capirebbe», disse Dorothy. «Certamente, per questo lo so», rispose lo spaventapasseri. «Se ci fosse voluto un cervello per capirlo, non ci sarei mai arrivato». Dopo più o meno un'ora la luce svanì del tutto e si ritrovarono a inciampare nell'oscurità. Dorothy non ci vedeva affatto, ma Toto sì, perché alcuni cani vedono benissimo al buio, e lo spaventapasseri sosteneva di vederci come se fosse giorno. Quindi Dorothy si aggrappò al suo braccio e riuscì a cavarsela abbastanza bene. «Dimmelo se vedi una casa o qualsiasi altro posto dove potremmo passare la notte», disse, «perché non è molto comodo camminare al buio». Poco più tardi lo spaventapasseri si fermò. «C'è una casetta alla nostra destra», disse, «fatta di rami e tronchi. Andiamo lì?» «Sì», rispose la ragazzina, «sono molto stanca». Così lo spaventapasseri la guidò oltre gli alberi, finché non raggiunsero la casetta, e Dorothy ci entrò e trovò un letto di foglie secche in un angolo. Si sdraiò immediatamente con Toto accanto e si mise a dormire come un sasso. Lo spaventapasseri, mai stanco, in piedi in un altro angolo, aspettò con calma il mattino. Alba Rohrwacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.